come piccola premessa. Gesù prende le distanze dalla legge di Mosè. Attenzione però, non lo fa per smentirla, ma per non lasciare in mano l'autorità religiosa, politica, economica, che hanno fatto uno strumento, o per non che diventi uno strumento di potere per dominare. Inoltre, per aprire le menti, il cuore dei discepoli e anche noi, a camminare sulla strada del cambiamento, per conoscere Dio come colui che ama, che è misericordioso, che è tenerezza. Notate. E questo per Gesù, riconoscere il desiderio che c'è in ogni persona, un desiderio genuino, quello di essere felici. Ecco perché dice, ma io vi dico, è stato detto, ma io vi dico. Allora, come leggere queste affermazioni di Gesù che parla là sul monte, come dire, parla a tutti? Propongo una lettura, veloce naturalmente, calata dentro il nostro presente, proprio per meglio comprendere questo, uso quattro termini. Parole, categorie che stanno dentro la nostra mentalità, dentro la nostra cultura, dentro la nostra religiosità, un modo di intendere la vita personale, sociale, facendo il confronto con ma io vi dico che. E le quattro parole sono, è una forma didattica se volete per tenere bene, potenza, identità, proprietà, sacrificio. Provo a spiegare succintamente, è logico. Potenza, cioè efficacia, vincere a tutti i costi. Il risultato è quello che conta. Guardate che quando si dice il risultato è quello che conta, se lo riportate dentro, per esempio, nella ricerca scientifica, se lo riportate dentro l'industria, le scoperte, voi capite che non si fa più distinzione bene che fine ha questa ricerca e così via. Ma non solo, ammirare ed essere ammirati, fare il personaggio. E c'è anche l'ideo di Dio onnipotente. Questa idea del Dio onnipotente. Il grande mago. E udite, la truffa dentro il delirio di potenza. Sono libero di fare quello che voglio. Gesù risponde, ma io vi dico, siate liberi, liberazione dal male, sotto sotto, come a dire, collaborare col male è infelicità. Quindi, alternativa alla tendenza della potenza, la libertà solidale, il mio modo di essere, il mio modo di esprimermi, il mio modo di, come dire, di essere dentro alle cose del mondo, di essere me stesso per quel che sono, essere fedele a me stesso, con i miei limiti, con la sobrietà e la frugalità che è necessaria perché la vita non sia appesantita. Libertà come indicatore del mio modo di vivere. Libertà solidale. È per me e per tutte le persone. Quindi libertà uguale servizio. E se entriamo nel tema dell'identità, questo io separato dagli altri, tradotto nel gergo l'individualismo, è imperante. L'altro, in fondo, po' come nemico. Mi presento quindi agli altri con tante difese. Gesù risponde, ma io vi dico, l'uomo esiste perché è un essere in relazione. Se togliete la relazione, comunque avvenga, non è possibile vivere, non c'è vita. Io vivo perché sono in relazione. È vero che abbiamo continuato a dirlo nei catechismi e lo predichiamo ancora oggi, anzi possiamo anche esserne convinti. È vero, ognuno è unico, ma perché incontra l'altro, perché incontra gli altri nel tessuto sociale di relazione. Sono unico, è vero, ho la mia identità, ma in quanto comunico con gli altri. Che pure sono unici, come uomo, come donna, unici, ma perché sono in relazione. Il discorso della proprietà è sacra, si dice, che balla. Ciò che è mio ne faccio quel che voglio, uso espressioni correnti così. Però è da qui che nascono le violenze, le guerre delle tribù, ma anche le guerre sottili, che esistono qualche volta all'interno della coppia, della famiglia, del quartiere e così via. I soprusi, gli sfruttamenti, con questo è roba mia. Perché il rischio, anzi, avviene che anche le persone diventano oggetto, è mio. Qualche volta scherzo con le giovani coppie, quando si dice è mio marito, è mia moglie, che è mio, lei è lei, tu sei tu, vabbè, puntini qui. Voi che siete esperti andate avanti. Gesù risponde, ma io vi dico, condividete hai ricevuto, ma non puoi tenerlo per te stesso, non per un ordine morale, ma perché ti marcisce in mano. Condividilo. E allora avrà, come dire, la sua cultura verso frutti nuovi. Naturalmente voi capite che se questo lo si applica all'economia, al sociale, alla politica, cambia il volto del convivere. Che bella frase. Non voglio sottrarmi all'idea del sacrificio, la morale sacrificale, ce ne hanno fatto una testa così, ne abbiamo una testa piena così, la religione sacrificale che ti do e tu mi dai, annoto. Quasi a cercare la sofferenza che è contraria alla natura piena della felicità. Siccome sono chiamato alla felicità il più piena, una vita riuscita, quantomeno la tendenza è quella, allora devo soffrire, perché se no dentro mi pare che ci stia, non so, la superbia. Siamo superbi se cerchiamo la felicità, ma oh, siamo matti. Gesù risponde, ma io vi dico, la vita non è per sacrificarsi, ma per la pienezza. Affrontare la vita in modo sensato è un imparare a rispondere alla vita perché sia piena, è il coraggio della relazione di qualsiasi tipo, della misericordia, della tenerezza, della pazienza, della sopportazione, del dare il mantello, far 2 chilometri quando te ne chiede di farne uno insieme, no? Per richiamare. Perché? Perché misericordia è un abbraccio. Perdonare è rispondere: sono felice che tu esisti e desidero che tu esista felice. Per questo ti perdono. Chiudo: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Sei inchiodato dentro in un'affermazione così. Ma se lo prendo come un cartello indicatore di orizzonte verso cui tendere, la perfezione del Padre alla quale Gesù invita vuol dire che consiste nell'essere come lui, disponibili a un amore che non esclude nessuno. Non esclude nessuno da tutto il raggio della sua azione. Sta scritto negli Atti degli Apostoli: un amore dal quale ogni persona può sentirsi accolta. Perché Dio non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo, così dice il Signore. Ho messo lì delle pennellate, andrebbero... Ogni argomento andrebbe approfondito. Ci sarà il tempo se campiamo.